mai. Non soffrirà il senato ch'una barbara ottenga il tuo soglio. Ma, o lei, non posso vivere senza lei. Dunque, m'ascolta, pria che maggior del per la fama intenda, il senato assicura che per util maggior a te fu duopo il donare di sposo a Cleopatra e fallaci speranze. Il tuo consiglio piacemi e lo vado tosto ad eseguire. Oh, quanto è strana mai questa legge d'amor. Semplici amanti, non vi par che sia l'amar così severa tirannia? In petto per voi lo quanto mi costa amor, quanto mi costa amor, mi costa sai minore un vincitore e sol ti merita rare rovine della battute mura apriamoci il sentier a Tioroto nostro compagno antico andiam e costi all'empio usurpatore il care nostro fiumi sangue un'altra volta il tempo io proprio prenderem opra da prore, ancor chi nel fuggir usa la frore. Andiam, chi si ritira sempre vile non è. Vu contrastare un vincitor soverbo, finché vivo il nome. Che se poi perdo quello che mi innamora, poco perder sarà la vita. Thank you. place, ch'io di tregua il mio duol, voi lo chiedete, in mente non conservate più ciò che a Pompeo debba Cornelio. Il padre o figli in vendicato aspetta e sollecita noi la sua vendetta. Bella dunque l'indegno, cada il perverso. Della ragion dell'armi abusa tuo piacer. Manca tor di tua fe, spergiuro e grato. Prova l'ultimo fuoco, paga la pena pur, cadi trafitto. Ah, Cornelio!